E ora ci addentriamo nell'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Maiorca Trekking. Buongiorno ed eccoci qui come tutti venerdì mattina su Italiana per una nuova puntata dell'Isola che non vedi, la vostra rubrica curata da Maiorca Trekking dedicata al senderismo a Maiorca ed in generale a tutte le meraviglie più o meno nascoste della nostra favolosa isola. Chi vi parla come sempre è Sergio ed oggi, nonostante non sia un tema connesso a ciò che abitualmente trattiamo, non possiamo da italiani non indirizzare con enorme affetto un pensiero, un abbraccio virtuale a tutti i nostri connazionali che in questo momento stanno vivendo giorni difficili nel nostro paese a causa della crisi sanitaria che tutti ormai conosciamo. Ognuno di noi ha familiari e amici in Italia a cui è legato e che ovviamente sono sempre nei nostri cuori. Come se non bastasse, anche noi qui sull'isola siamo ormai in isolamento domiciliare e oggi più che mai Maiorca Trekking deve e vuole farvi ancora più compagnia cercando di far volare la vostra mente e la vostra fantasia, visto che fisicamente almeno per queste settimane siamo tutti impossibilitati a farlo. Detto ciò, oggi ci concentreremo su questioni più tecniche, cercando di spiegare a tutti voi come valutare le caratteristiche di un percorso di montagna, quali sono e come si interpretano le scale di difficoltà riconosciute a livello internazionale e nazionale, in modo da potervi dare degli strumenti utili per capire se un percorso è tecnicamente fattibile per ognuno di voi in base alla valutazione di una serie di parametri molto utili e oggettivi. Restate quindi come sempre su Italiana dopo questo brano e ci risentiamo fra pochi minuti. Sì, noi che qui siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Faccia d'angelo, David di Michelangelo. Occhi ghiacciolo, danno te cose che mi piacciono. Ci son cascato di nuovo, ci son cascato di nuovo. Pensi sia un gioco vedermi prendere fuoco. Oh sì sì, ci son cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei più, già lo so. Che poi lì, che non so più poi chi trovo. Chi trovo. Sono qui, fai di me quel che vuoi. Fallo davvero. Sono qui, fai di me quel che vuoi. Non mi sfiora nemmeno. Oh sì sì, me ne frego. Me ne frego. Dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego davvero. Sì, me ne frego. Prenditi gioco di me che ci credo. St'amore panna montato al veleno. Oh sì. Instabile, fragile, è una strega solo favore, favore. A farla scema è abile, agile, quel modo insospettabile. Oh mio Dio, sì, lei che dice a me voglio te, ma vuole quello che non sa di sé. Dai, vorresti che buttassi tutto quanto all'aria per te. Sì, perché per un capriccio lo sai che è così. Non si può, non si può, come no. Non mi sfiora nemmeno. Oh sì, sì, me ne frego. Me ne frego. Dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego davvero. E siamo di nuovo qui con l'isola che non vedi ed oggi affronteremo insieme a voi un discorso puramente tecnico, focalizzandoci su come valutare le difficoltà di un percorso prima di metterci in marcia, analizzando i vari fattori da considerare per capire cosa ci troveremo davanti e che grado di difficoltà andiamo ad affrontare. Occorre infatti sempre ricordare che il trekking è pur sempre un'attività all'aria aperta in montagna ed in quanto tale presenta sempre dei fattori di rischio che vanno analizzati prima di mettersi in marcia. Capire che tipo di sentiero si vuole percorrere e soprattutto che cosa ci aspetta è il primo fondamentale passo per non trovarsi impreparati in termini di tempi di cammino, sforzo fisico e attrezzatura necessaria. Il trekking deve essere sempre un piacevole incontro con la natura, mai un'esperienza improvvisata e poco piacevole. La questione quindi diventa: come fare a capire se un percorso è adatto a noi? Per aiutarvi nella scelta esistono varie scale di difficoltà utilissime per inquadrare in modo univoco i sentieri. Anche se ne esistono diverse, tutte si basano principalmente su tre parametri: il dislivello complessivo, ossia la somma della pendenza in salita e in discesa, la distanza planimetrica, ossia la distanza da un punto A a un punto B di una cartina, calcolato senza tenere conto delle altimetrie e dei dislivelli, e in ultimo il tipo di segnaletica, nella migliore delle ipotesi costituita da cartelle indicanti località e tempi medi di percorrenza, ma spesso formata da semplici pennellate di colore rosso su sassi e alberi o anche solo da piccole piramidi di pietra molto artigianali. Soprattutto qui a Maiorca, dove i sentieri indicati da cartelli costituiscono a malapena il 10% di tutta la rete sentieristica presente sull'isola, conoscere le forme alternative di segnalazione è fondamentale per non perdersi. In base a questi parametri, in Italia, il CAI, che è il Club Alpino Italiano, l'ente supremo in materia di montagna, individua tre gradi di difficoltà per la semplice attività escursionistica: turistico, escursionistico ed escursionistico per esperti. Al primo livello, il turistico, da cui devono partire la gran parte di coloro che si sono da poco avvicinati al mondo della montagna e che ancora devono prendere confidenza con il senderismo, appartengono i percorsi su tracciati semplici, corti, ben segnalati e con un dislivello inferiore ai 500 metri. Spesso infatti seguono mulattiere e vie ben strutturate che è possibile seguire senza problemi, non essendo necessario un gran senso dell'orientamento e neanche un buon allenamento. Si tratta in pratica di percorsi adatti a tutti, compresi bambini e persone dalla vita tendenzialmente sedentaria. A livello successivo, l'escursionistico, il dislivello sale e si attesta fra 500 e 1000 metri. Sono itinerari su sentiero, tracce evidenti su terreni di vario genere e sono generalmente segnalati con vernice o pietre impilate a forma piramidale, che permettono di individuare il percorso anche da lontano. Richiedono una sufficiente capacità di orientamento e allenamento alla camminata, anche per qualche ora. Se riuscite a camminare in salita per un paio d'ore di seguito senza problemi, allora potrebbe essere il livello giusto. Infine, il livello escursionistico per esperti. Sono itinerari generalmente segnalati ma con qualche difficoltà. Il terreno può essere costituito da pendici volosi di erba, misti di rocce d'erba, pietrae o singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata che richiedono l'uso delle mani. Richiedono una discreta conoscenza di montagna, passo sicuro e assenza di vertigini. I sentieri superano infatti 1000 metri, quindi bisogna essere davvero ben allenati ed essere pronti ad affrontare ogni tipo di tracciato, anche ripidi pendii. La segnaletica non sempre sarà presente, quindi oltre ad un buon senso dell'orientamento e all'abilità di seguire anche leggere tracce sul terreno, è necessario saper leggere una carta, così da sapere sempre dove ci si trova e cosa si avvicina in caso di bisogno. Spell, you will get your way when you hit Siete ancora su Italiana in compagnia di Sergio di Mallorca Trekking per una puntata tutta di natura tecnica, dedicata a come scegliere il percorso adatto a noi e come valutare le difficoltà di un sentiero. Abbiamo finora parlato della scala adottata dal CAI, che pur essendo un ente tutto italiano, ha elaborato un sistema assolutamente oggettivo ed applicabile a livello internazionale. Ma come si traduce tutto ciò in Spagna? Si traduce in una sigla, MIDE, un metodo analogo alla scala di cui abbiamo parlato prima, raccomandato dalla Federazione Balearia di Montagna e dalla Federazione Spagnola di Montagna e Scalata. Le informazioni contenute nel MIDE seguono una logica un po' diversa da quella del CAI, essendo di due tipi. Da un lato ci sono le informazioni puramente tecniche, durata del cammino, pendenze, distanza planimetrica e chilometri percorsi effettivi. Dall'altro ci sono le informazioni di valutazione su una scala da 1 a 5 dei quattro parametri di difficoltà che compongono proprio la sigla MIDE. La M di medio, ossia l'asprezza dell'ambiente naturale, la I di itinerario, ossia la difficoltà di orientamento, la D di desplazamiento, ossia la difficoltà di spostamento lungo il cammino, e infine la E di esfuerzo, ossia il tipo di sforzo richiesto. Analizziamoli ora uno alla volta. Per quanto riguarda l'asprezza dell'ambiente naturale in cui ci si muove, il MIDE tiene conto di una serie di cosiddetti fattori di rischio. Fra i tanti citiamo ad esempio l'esposizione durante l'itinerario a cadute di roccia, l'eventualità di una caduta nel vuoto lungo un pendio, la presenza di passaggi in cui è necessario l'uso delle mani o passaggi fuori sentiero su terreni irregolari che renderebbe difficile l'individuazione di persone in situazioni di difficoltà da parte dei soccorritori. La I di MIDE identifica invece la difficoltà di orientamento prevista e anche qui ci sono vari parametri. Incroci ben definiti con indicazioni esplicite, percorsi o segni che indicano continuità nel cammino, presenza di precisi riferimenti geografici come fiumi, valli o cime inconfondibili, segni di attraversamento di altre persone oppure semplici ostacoli da evitare. La D identifica il valore della difficoltà di movimento e analizza ad esempio la regolarità del suolo, se troveremo sentieri sfalsati o terreni sconnessi o a gradoni, se dovremo usare le mani per piccole scalate o se ci sono dei salti in discesa da superare. Infine resta la E di esfuerzo, che misura la quantità di sforzo fisico necessario per poter effettuare l'escursione. Questo valore dipende principalmente da quante ore di cammino sono mediamente necessarie prima di completare il nostro percorso. Ad ognuno dei quattro elementi del MIDE viene dunque assegnato un punteggio da 1 a 5, in modo da poter comprendere quanto è difficile un percorso e, cosa ancora più importante, dove sta la reale difficoltà nel farlo. Ad esempio, una tabella MIDE con tutti i valori bassi tranne un valore sforzo pari a 5 ci dice che il sentiero sarà tecnicamente facile ma molto molto lungo. Oppure una tabella con sforzo e orientamento basso, ma movimento e asprezza alti, ci dice che il sentiero, pur non essendo faticoso e ben segnato, presenta dei tratti difficili in un ambiente ostile da dover superare. Ovviamente, oltre a questi fattori puramente tecnici, la scelta del percorso deve sempre essere dettata da un'autovalutazione soggettiva riguardante la propria esperienza in attività simili, la propria reale capacità di resistenza allo sforzo fisico e lo stato generale della propria salute. Se non si è mai indossata una scarpa da trekking, scegliere percorsi lunghi e complicati sarebbe per voi massacrante. Quindi fate sempre attenzione al livello di difficoltà prima di scegliere il percorso, siate onesti con voi stessi nella valutazione delle vostre capacità e ricordate sempre che a piccoli passi si arriva a grandi traguardi. Mi fido del mondo, non ti dico le botte che prendo, non c'è modo di starsene fuori da ciò che lo rende tremendo e stupendo. La canzone è rimasta nel vento, le sorprese che fa il firmamento, ed i primi che mangiano tutto e gli ultimi pagano tutto quel conto. Per il cielo è un po' presto, per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo buio pesto. A mia volta ti apro la casa e ti trovi davanti un vampiro, che a mia volta devo succhiare tutto l'amore che riesco a rubare. Per me la linea sottile fra baciare e mangiare, la linea sottile tra venire e partire. C'è una linea sottile fra star fermi e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? A volte non smetto d'andare, anche se non si sa ancora dove. A mia volta invecchio alla svelta perché non rinuncio a una certa illusione. Anche oggi purtroppo siamo alla fine del nostro appuntamento del venerdì con l'Isola che non vedi, ma prima dei saluti finali vi ricordo che, come già comunicato sui nostri canali social, l'evento inaugurale del Club Mallorca Trekking ovviamente è stato rimandato a data da destinarsi a causa dell'attuale emergenza coronavirus e che al momento tutte le nostre escursioni in programma sono chiaramente sospese. Nonostante ciò, la nostra attività non si ferma, anzi noi continueremo più di prima ad essere presenti con pubblicazioni, foto e video sulla nostra pagina Facebook Mallorca Trekking, l'isola che non vedi, e sul nostro account Instagram Mallorca Trekking Project. Ma noi vogliamo fare di più. Abbiamo creato un gruppo WhatsApp dove già sono presenti tanti italiani dell'isola per rendere più piacevole le nostre e le vostre giornate di isolamento domiciliare. Tutti voi potrete accedere semplicemente attraverso l'evento dedicato presente sulla nostra pagina o contattandoci direttamente via Messenger o via WhatsApp al 642 991 643. Sarà un luogo virtuale dove poter scambiare pensieri, stati d'animo, idee, foto e tutto quello che vi passa per la testa. Nonostante la grande voglia di condivisione e di unione che anima tutto lo staff di Mallorca Trekking, vogliamo terminare questa puntata cambiando il nostro solito invito alla scoperta dell'isola e solo per questa volta vi diciamo: restate a casa. Restate a casa se volete che questa emergenza finisca il prima possibile, restate a casa se volete quanto prima tornare a godere della nostra splendida Mallorca. Ciao a tutti e a venerdì prossimo. L'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Mallorca Trekking.